poter leggere quelle parole non allineate, sincere di Rodari in risposta alle loro domande, che toccavano poi temi forti, la disoccupazione, l'analfabetismo, la pace. Beh, lui ha sempre trattato temi di grande importanza, però lo ha fatto con le armi della fantasia, della creatività e con una straordinaria ironia e leggerezza. E sicuramente io credo che abbiano avuto molta importanza, non tanto La Via Migliore, che aveva una diffusione più attraverso i canali della scuola, quanto sicuramente il Corriere dei Piccoli, che era in quegli anni un gioiello dal punto di vista dei contenuti, della ricchezza dei collaboratori, no? E poi il Pioniere, certamente in un ambito, se vogliamo, più ristretto, perché era aveva una diffusione più limitata, aveva meno mezzi, si rivolgeva soprattutto al mondo della sinistra storica, del Partito Comunista, eccetera. Però sicuramente anche quello, anche Pioniere, ha avuto una grande importanza. Io stesso sono, in qualche misura, sono cresciuto col Pioniere. Mio padre, che era operaio metalmeccanico, me lo portava, lo comprava in fabbrica nella sezione e poi lo portava a casa. Ma come armatura, mi come bravura, ci come canaglia che con me verrà in questura, mi come diamante e come elefante, è quel furfante che in galera se ne va. Perché c'è tanta gente, l'acca non si sente, immediatamente alla L passerò. L leale, M meno male, N è Natale, tanti doni io avrò. Però c'è l'orco, per P c'è Pinocchio, per Q per Ranocchio, questa sera mangerò. R come Roma, S come strada, di tutte le strade che a Roma porteranno. Che bella storia vi ho raccontato, zitto tanto sonno e a letto me ne andrò. Sotto le lenzuola tutte le parole fanno capriole, nuove storie inventerò. La storica Vanessa Roghi ci ha regalato Lezioni di Fantastica, storie di Gianni Rodari, che è forse il compendio più completo per l'autore di 1000 filastrocche per ragazzi, ed è un tomo corposo, ricco anche di 1000 contributi di esperti ricercatori. Ascoltiamola, la stessa Vanessa Roghi, dai microfoni di Morena Moretti. Vanessa Roghi, Rodari è stato all'inizio della sua carriera un giornalista e si è ritrovato a scrivere per bambini. Ci racconti un po' com'è andata questa vicenda, perché mi pare che lui non volesse, no, scrivere per bambini non l'avesse mai fatto, insomma, fu chiamato un po' a questo. Sì, lui appunto, insomma, lui voleva fare lo scrittore, sicuramente nel giornalismo aveva trovato una sua realizzazione rispetto poi a quelli che sembrava essere il suo destino, figlio di una madre vedova, con scarsissime capacità economiche, che frequenta le scuole magistrali pur essendo molto bravo, perché non può fare il liceo, perché deve lavorare, fa il maestro per qualche anno perché ha bisogno veramente di mantenersi, di vivere, perché non ha assolutamente nessuno che si possa occupare di lui, mentre si iscrive all'università, ma lascia dopo poco tempo, trova nella militanza, nel Partito Comunista e soprattutto nel lavoro nei suoi periodici veramente uno sbocco insperato e che lo instrada verso quello appunto che voleva essere lui, cioè uno scrittore. Poi però appunto un militante, anche come lo erano insomma tutti allora, ed avendo questo gusto dell'ironia che aveva imparato attraverso tutta una serie di incontri letterari che aveva avuto alla fine degli anni 30, lui a un certo punto inizia a scrivere appunto articoli ironici di natura politica. Questi articoli gli chiedono una pagina appunto satirica sull'Unità di Milano, doveva lavorare nel 47, e per la redazione è troppo satirica, è quasi infantile appunto, allora gli dicono: ma perché non scrivi per i bambini? E lui così inizia a scrivere per i bambini. Devo dire che insomma veramente ringraziamo la lungimiranza anche dei redattori dell'Unità, che hanno capito che Rodari c'era questo gusto per l'assurdo, ma anche per la semplicità del racconto, che poteva trasformarsi in una nuova letteratura per l'infanzia, e così infatti è stato. E fu per questo che poi fu chiamato a Roma a dirigere i Pionieri insieme a Dina Rinaldi, questo giornalino esatto. E lui lavorava, almeno quello che ci racconta chi è ancora vivo della redazione, mi riferisco a Luciano Romoli, che lavorava sempre in orizzontale, che non era il direttore con i sottoposti, ma era molto molto disponibile ad accogliere tutte le informazioni dalle persone che poi erano a contatto in quel momento con i bambini anche molto poveri della capitale, che facevano un lavoro con questi bambini. Era molto pronto all'ascolto, e questo probabilmente è una qualità di Gianni Rodari. Che ne dici, Vanessa? Io credo che sia un suo tratto proprio caratteristico. Poi appunto ricordiamo, ve l'hai fatto anche tu, Dina Rinaldi, che comunque è stata una colonna portante di Pioniere e che viene ricordata sempre troppo poco, quindi appunto Rodari viene mandato a dirigerlo, ma insomma la Rinaldi faceva veramente un lavoro pazzesco, e lui comunque si portava questo modo di lavorare, una bellissima definizione, orizzontale, ma questo perché era proprio davvero la sua cifra caratteristica, quella di non avere mai avuto e non ha tutta la sua vita un pensiero gerarchico. E questo forse è stato uno dei motivi per cui poi anche dentro il Partito Comunista non ha, come si può dire, fatto carriera, insomma. Io credo che Rodari avesse un rapporto con il potere conflittuale è molto sano, e quindi nel momento in cui si trovava a esercitarlo, comunque lo esercitava nel modo migliore, cioè coinvolgendo gli altri. Allora, Rodari oggi appunto è celebrato e forse anche un po' mitizzato, cioè si sta mitizzando Rodari in queste celebrazioni. C'è una tendenza a fare di Rodari l'uomo solo, un po' decontestualizzandolo invece in un'epoca storica in cui comunque c'erano altri intellettuali con cui lui ha collaborato, si è rapportato, e quindi lui non nasce dal nulla, nasce proprio da un quadro storico complesso ma anche molto ricco. Sì, questo è proprio un punto fondamentale, però io credo che questo sia un po' il punto fondamentale di tutta la storia, normalmente, di come viene impostata e raccontata la storia della cultura in Italia, e che poi è molto rodariana come questione, cioè come si racconta il genio, appunto, l'eccellenza. Si racconta sempre come figura isolata, appunto, si usa spesso l'aggettivo profetico, piace dire appunto che era solo, per esempio di Rodari piace molto dire che era un eretico, no, dentro il PC, cioè questa veramente che era grande caratteristica della storia culturale italiana, soprattutto della storia degli intellettuali, per cui l'intellettuale è sempre un po' contro, no? Come diceva Tassa Flores, se eravamo tanto amati, l'intellettuale non ha amici, l'intellettuale è sopra e sotto e oltre. Ora invece no, insomma, l'intellettuale è anche appunto orizzontale, arrovesciato, è quello che lavora con gli altri, e nel caso di Gianni Rodari, accidenti, si è lavorato con gli altri, no? Se non ci fossero stati i maestri e le maestre del movimento di cooperazione educativa, se non ci fossero stati gli altri compagni di partito, gli altri scrittori, Rodari non sarebbe stato Rodari, sarebbe vissuto in quegli anni, cioè, Rodari è tutto di relazione, no? E lui ci ha messo tutto il suo, e tutto il suo è la capacità di trasformare la relazione, e anche la relazione culturale, quella che lui definisce materia prima, in una storia nuova. Fantasia, macchina eccezionale che ci porta dove non si può andare, anche 20.000 leghe sotto il mare. Fantasia, fantastica vettura per viaggiare più in alto della sera che guardare l'altra faccia della luna. Tutto comincia lì, da una matita che disegna il primo salto fatto da Peter Pan. È la magia che va, l'isola che non c'è, e anche chi non ci crede, ci crederà, ci crederà. Fantasia, bellissima sirena, tu che giri

tu pensi che sia giusto far gli amanti vita natural durante che barba amore mio un giorno l'altro io tu pensi sia eccitante far gli amanti vita natural durante ti sbagli amore mio. Un giorno l'altro addio. Tu pensi sia eccitante far gli amanti vita per adesso ci fermiamo analizzando questi volumi editi inerenti a Gianni Rodari, ma riprenderemo e concluderemo questa chiacchierata la settimana prossima con l'ultima puntata. Per adesso questo è tutto e ricordo, per chi volesse riascoltare la trasmissione in podcast, l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it o www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?